Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Oggi primo maggio, festa dei lavoratori, ma anche il giorno in cui viene beatificato Papa Giovanni Paolo II. Ne abbiamo parlato anche nelle puntate della settimana scorsa, perché i magazine, i settimanali italiani ma anche stranieri sono pieni di considerazioni sulla figura del Papa, considerazioni storiche, a volte anche qualche nota polemica. Noi, come dire, vi segnaliamo, ma per la ricchezza dell'offerta, Famiglia Cristiana questa settimana, Famiglia Cristiana presenta uno speciale di un'ottantina di pagine, direi abbondanti, sulla figura di Papa Giovanni Paolo II. Nell'editoriale si spiega che Wojtyła è stato un autentico leader globale, non solo per i cattolici, così scrive Famiglia Cristiana, perché Papa Giovanni Paolo II ha percorso ogni orizzonte e nessuno gli è stato estraneo, nessuno l'ha respinto. Per quasi 27 anni, tanto è durato il suo pontificato, in ogni parte del mondo, culture, religioni, stati, grandi organizzazioni internazionali, tutti hanno fatto i conti con Karol Wojtyła, anche chi con lui è stato severo, molto severo, anche chi l'ha criticato, ma nessuno ha potuto ignorarlo. Il professor Andrea Riccardi, ricorda sempre Famiglia Cristiana, che è autore dell'ultima biografia di Karol Wojtyła, lo chiama governo carismatico, cioè carisma come governo. Un papa, scrive ancora l'editoriale Famiglia Cristiana, che non ha fatto grandi riforme strutturali, ma ha saputo parlare, viaggiare e agire, un pontificato geografico e anche mediatico. Questa l'editoriale che apre questo lunghissimo speciale, questo dettagliatissimo speciale di Famiglia Cristiana, che ripercorre anche la vita del Papa, alcuni aspetti della vita del Papa, che ha conosciuto, come sappiamo, anche la guerra e il periodo dell'occupazione nazista della Polonia. C'è anche il ricordo di Don Kazimierz Suder, che è uno dei giovani che avevano frequentato con Wojtyła proprio il seminario clandestino che era stato allestito nella Cracovia all'epoca occupata appunto dai nazisti. Oggi Kazimierz Suder ha 89 anni, vive proprio a due passi dal salotto di Cracovia, la piazza del mercato di Cracovia. Il cardinale Sapieha, ricorda appunto Suder, aveva organizzato questo seminario clandestino e i giovani che vi erano ammessi, tra cui appunto Karol Wojtyła, rischiavano moltissimo, ricorda Don Suder, dovevamo stare molto attenti, un nostro compagno era stato arrestato dalla Gestapo e fucilato. Quindi nel 1944 poi il cardinale aveva convocato i seminaristi per radunarli tutti in un unico ambiente e così poter offrire le stanze ai sacerdoti polacchi che fuggivano da Varsavia dopo il fallimento dell'insurrezione. Questi e molti altri ricordi della vita di Papa Giovanni Paolo II. Come sapete, oggi Radio 24 ha una programmazione con diversi appuntamenti dedicati proprio alla beatificazione. Già abbiamo ascoltato lo speciale di Katia Caramelli, poi dopo di noi ci sarà uno speciale in diretta con Deborah Rosciani, con Anna Migliorati, con Gianfranco Fabi. Seguiremo la beatificazione e ascolteremo appunto le voci dei pellegrini che sono arrivati a Roma con interviste a personaggi del mondo cattolico e a commentatori. Quindi tutta la mattinata della programmazione di Radio 24 farà perno proprio su questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo II. C'è un aspetto ricordato un po' da tutti i magazine di Giovanni Paolo II, secondo il suo rapporto con il lavoro. Giovanni Paolo II, a parte che era stato appunto lui stesso operaio, aveva lavorato come operaio, ma era anche un papa noto per essere in qualche modo percepito dalla parte dei lavoratori. Savino Pezzotta, che è stato segretario generale della CISL dal 2000 al 2006, firma proprio per Famiglia Cristiana, per questo speciale di Famiglia Cristiana, un suo contributo in cui ricorda i tratti sia come dire graditi ai sindacati del Papa, ma anche quelli non meno graditi ai sindacati. Lui dice appunto che ricorda appunto quando andò a parlare a Solidarnosc nel 2003. All'epoca Solidarnosc era impegnata in politica e il Papa disse loro: guardate, l'attività dei sindacati non ha carattere politico, non deve essere strumento dell'azione di nessun partito politico, deve invece potersi concentrare in modo esclusivo, pienamente autonomo, sul grande bene sociale del lavoro umano e degli uomini del lavoro. Quindi una critica anche molto forte in un momento in cui Solidarnosc era invece impegnata politicamente. Vi ricordo che anche il Sole 24 Ore presenta in edicola in questi giorni un libro fotografico dedicato proprio alla vita di Karol Wojtyła, lo trovate in vendita con il nostro quotidiano. Ma noi restiamo in qualche modo a parlare di lavoro, proprio approfittando di questa opportunità che ci dà lo speciale di Famiglia Cristiana dedicato al Papa, e parliamo invece di quell'altra festa che celebriamo oggi, appunto quella del 1 maggio. 1 maggio, festa dei lavoratori. Devo dire, tanto quanto la beatificazione è seguita, analizzata, studiata in ogni dettaglio dai magazine, così invece la ricorrenza del 1 maggio sembra abbastanza ignorata, abbastanza trascurata dalla maggioranza dei magazine, tanto che per trovare qualche segnalazione che volevamo presentarvi, Anita Panizza ed io abbiamo dovuto un po' spigolare qua e là tra i settimanali. È interessante quello che sta sul venerdì distribuito con Repubblica, appunto, 1 maggio, festa dei lavoratori, ricorrenza inquieta, scrive Antonella Barina, visto che trovare o mantenere un impiego è diventato sempre più difficile. E proibitivo, questo è l'argomento del breve articolo di Antonella Barina, proibitivo cercare e mantenere un impiego per le persone disabili, il cui accesso al lavoro in tempo di crisi si è ridotto di un terzo. I dati ministeriali registrano 700.000 disoccupati, con un tasso del 75% tra coloro che soffrono di un deficit psicofisico. Benché a tutelare il loro diritto del lavoro esista una legge, la legge 68 del 99, che impone alle aziende con oltre 15 dipendenti di assumere almeno il 7% di lavoratori disabili, molte aziende tuttavia, segnala Antonella Barina, girano la norma perché la multa prevista per chi la evade resta comunque bassa. Per cercare di diffondere un po' di più questa sensibilità nel impiegare anche persone diversamente abili, appunto, che non sono ugualmente abili nelle mansioni, appunto, delle altre persone, ma possono essere ugualmente abili o anche maggiormente abili se svolgono mansioni adatte alle loro capacità. C'è un gruppo che si chiama Quelli del Sabato, ha anche un sito che è scritto proprio così, www.quellidelsabato.it, e le ACLI di Novara, queste si trovano al sito delle ACLI, www.acli.it, hanno lanciato una campagna per sensibilizzare proprio le aziende, e questa campagna si chiama Calcolami, ho i numeri per lavorare, i numeri sono 6899, cioè il numero e l'anno della legge che tutela appunto l'inserimento dei disabili sul lavoro. Ma forse una certa disattenzione per il 1 maggio è che parlare di lavoro in questo periodo di crisi, in questo periodo appunto di difficoltà per l'occupazione, anche gli ultimi dati ci hanno confermato una criticità della disoccupazione giovanile, dicevo, parlare di lavoro è un po' imbarazzante o si rischia di dire cose tutto sommato già note. Allora va forse premiato lo sforzo che fa Vanity Fair con due contributi, l'uno affidato a una firma abituale, Barbara Palombelli, che ha una sigla e segnala appunto un film che è stato girato da Precari, un film che uscirà nelle sale a luglio, si chiama La ballata dei precari. Tutti i ruoli sono stati interpretati da veri precari, ci sono 6 episodi che raccontano, scrive la Palombelli, avventure che ormai noi genitori conosciamo a memoria. Gli stage senza retribuzione, l'eccesso di master, l'impossibilità di accendere un mutuo, di affittare una casa, di programmare dei figli, e poi anche qualcosa di surreale con un episodio che si chiama 2050, si parla dell'incubo della pensione, e con un episodio infine che si chiama l'ammortizzatore, si immagina che una coppia di genitori sui 70 anni preoccupati per il futuro del figlio assoldi un precario per fare da killer e così da poter essere uccisi e devolvere l'assicurazione all'erede, che in questo modo non sarà più precario. È una sorta di sarcasmo, se volete, di umorismo nero, però che serve a ricordare la situazione paradossale, come scrive appunto la Palombelli, la situazione paradossale che attraversa le vite delle famiglie italiane. E ancora sui precari, un contributo invece molto più articolato, quello di Veronica Bianchini, che è andata a visitare il laboratorio del Gran Sasso. Il laboratorio del Gran Sasso è un posto dove appunto lavorano i migliori fisici giovani e meno giovani presenti in Italia e non solo in Italia, ma è un luogo dove ci sono soprattutto moltissimi precari. Anche qui, anche a questo livello di ricerca, appunto, il precariato, la difficoltà anche di utilizzare risorse pubbliche, gioca un ruolo determinante. E nel suo articolo Veronica Bianchini racconta appunto queste vicende di giovani fisici o tecnici informatici di altissimo livello che di anno in anno cercano, così confidano nel rinnovo del contratto. Tutto questo su Vanity Fair di questa settimana, una delle poche segnalazioni dedicate alle questioni di lavoro in questa settimana che ci ha portato al 1° maggio. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Cambiamo argomento, non parliamo più di lavoro, parliamo di internet invece, perché nella rubrica che tiene sull'Espresso la bustina di Minerva, Umberto Eco parla di un tema che era già stato sollevato, a onor del vero, dal Sole 24 Ore qualche mese fa. La affidabilità delle notizie che compaiono su internet, o per meglio dire la facilità con cui le cosiddette bufale si diffondono su internet e prendono anche rapidamente piede. All'epoca l'inchiesta del Sole 24 Ore si intitolava significativamente www.verità e appunto ospitava una serie di contributi anche preoccupati di ricercatori, di studiosi che occupandosi della materia segnalavano come internet sia molto facile, molto credulona, molto propensa a credere a qualsiasi cosa. La conferma viene appunto da Umberto Eco sull'Espresso di questa settimana. Dice: ho appreso dal Fatto Quotidiano che l'International Herald Tribune aveva pubblicato una mia lettera molto polemica sulla guerra in Libia. In realtà si trattava di una trovata di un signore di cui non faccio il nome, specializzatosi ormai in falsi. Lui spesso millanta, per meglio dire, interviste con personaggi illustri. Aveva anche creato un mio falso profilo Facebook, prosegue Umberto Eco, che aveva peraltro subito raccolto numerose offerte di amicizia, come pare accada tra i dissennati praticanti di questo sport. Tra l'altro, appunto, l'utilizzo di Facebook in un modo così disinvolto, anche appunto fingendosi persone che non si è comunque un reato, cioè si rischia grosso e stanno crescendo. Questo non lo ricorda Eco, naturalmente, che si occupa di altra materia, ma via via capita sempre più di frequente di vedere delle condanne per appunto aver detto di essere chi non si è o aver diffamato qualcuno su Facebook. Quindi bisogna fare attenzione anche quando si usano i social network, i social media, le regole non sono poi diverse da quelle che valgono nella realtà fisica. Eco prosegue nella sua rubrica citando altri casi in cui gli sono stati attribuiti dei comportamenti o delle frasi che lui in realtà non ha mai detto, ma che poi in realtà hanno finito per prendere piede e dice diventa anche difficile poi smentire. Immagino, dice, che molti miei colleghi scrittori possano citare episodi analoghi. Ormai internet è divenuto un territorio anarchico dove si può dire di tutto senza poter essere smentiti. Però se è difficile stabilire se una notizia su internet è vera, allora magari è più prudente supporre che sia falsa. E a proposito di falso e di autentico, poi c'è anche chi distribuisce falsi per dimostrare che non c'è più confine tra verità e menzogna. Questo però, argomenta Eco, non è proprio vero, perché si vede che poi le bufale vengono alla fine scoperte. Quindi anche l'idea di questo relativismo, di voler confondere tutto, conclude Eco, non ha proprio tutti i diritti di cittadinanza. Dice: per sostenere comunque che qualcosa è falso bisogna ritenere che esista da qualche parte qualcosa di autentico. Quindi, per quanto falso possa essere propagato dalla rete, comunque dovremmo sempre essere in grado di reagire, essere in grado di riconoscerlo. Cambiamo completamente argomento, ritorniamo su Storica, ritorniamo perché in realtà vi avevo già segnalato un tema di Storica, che è il mensile National Geographic, appunto dedicato alla storia. Ve ne avevo già segnalato un argomento ieri, ci torno perché ho trovato una di quelle curiosità che a volte, come dire, fa piacere sapere. L'origine delle parole è una piccola rubrica che accompagna le pagine iniziali di Storica. Questa volta ci spiega perché noi usiamo il termine somma per le addizioni. Ora non so quanto ci abbiate fatto caso, ma effettivamente noi la somma la facciamo in basso, quindi di sommo, cioè di cosa che sta in alto, non ha proprio nulla. E allora perché si usa questo termine? Ce lo spiega Storica. Dice: questa parola somma deriva dal latino summa linea, che vuol dire appunto riga alta. I romani infatti non potevano fare le addizioni in colonna come le facciamo noi, perché la loro numerazione non era posizionale, cioè non prevedeva unità, decine, centinaia come con i numeri arabi. Allora usavano un abaco che era formato da una tavoletta con delle scanalature. In queste scanalature scorrevano dei sassolini che erano detti appunto calcoli, da cui il termine calcolo. E attraverso operazioni un po' complicate, che Storica non riassume, la rubrica, ripeto, è una breve rubrica, attraverso operazioni un po' complesse spostavano verso l'alto questi calcoli che si riferivano alle cifre del totale. Questi calcoli, quindi questi sassolini, venivano portati sulla riga alta, cioè sulla summa linea, la riga più alta, e da quel summa linea è arrivato il nostro somma, anche se per noi la somma è quella che viene sotto la riga più in basso. Un solo ritorno su un tema già affrontato in precedenza. Lavoratori, ci segnala l'Economist questa settimana un preoccupante declino per i lavoratori maschi non specializzati negli Stati Uniti, con dati e grafici abbastanza preoccupanti. È un discorso molto complicato da riassumere in pochi minuti, ma questa corrispondenza da Filadelfia segnala come, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Italia, in Gran Bretagna, in Giappone, si stia assistendo via via a un declino sempre più rapido della capacità occupazionale, della possibilità occupazionale dei lavoratori maschi non specializzati. Abbiamo detto più volte, le donne hanno sofferto, avrebbero sofferto meno della crisi, così almeno segnalano le statistiche, i numeri che provengono dall'America. Non così invece i lavoratori uomini, specialmente se non hanno una preparazione specifica o se appunto sono despecializzati del tutto. Ecco, l'articolo si intitola "Del declino del lavoratore uomo, dell'uomo lavoratore", e con, ripeto, una serie di grafici dimostra proprio come questa tendenza sia in drastico aumento negli ultimi mesi. Allora, visto che parliamo di una rivista in lingua inglese, l'Economist, vi segnalo che è già in edicola il numero di English 24. Sapete che English 24 è uno strumento per migliorare, per tenere esercizio l'inglese, e poi se ascoltate Radio 24 sapete anche che English 24 ha un appuntamento tutti i sabati alle 19:15 con Marta Cagnola e Giulia Crivelli, in cui appunto vengono segnalati alcuni brani, si dà modo di sfruttare il periodico che trovate in edicola per migliorare, per impratichire il vostro inglese. E sempre in edicola con il Sole 24 Ore c'è anche per il numero di maggio I Viaggi del Sole, questa volta dedicato alle crociere, 50 idee, dice la copertina, dai fiordi ai Caraibi. Tutto questo in edicola con il Sole 24 Ore. Allora, mi accenno Peter Bescapè, che questa mattina, primo maggio, mi accompagna in regia, che il tempo a disposizione è pressoché scaduto. Allora vi faccio grazia di altre segnalazioni, vi invito invece a seguirci, a seguire questa mattina che sarà dedicata alla beatificazione di Giovanni Paolo II, con collegamenti, con uno speciale in diretta, ripeto, con Deborah Rosciani, con Anna Migliorati, con Gianfranco Fabi, fino a mezzogiorno. Se poi volete altre informazioni sui programmi di Radio 24, vi rimando al nostro sito www.radio24.it, e se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Buona domenica a tutti.